Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Difficile non capire subito quale sia l'amico immaginario che ritroviamo oggi. È italiano, anzi arci italiano. Fa l'impiegato presso l'ufficio sinistri di una mega ditta. La sua matricola è 7829/bis. Ha una moglie, Pina, che non lo ama ma lo stima e ne subisce pazientemente tutte le angherie. Ha una figlia, Mariangela, di una bruttezza difficile da ritrovare in natura se non tra le scimmie. Ha un sogno segreto, una passione extraconiugale, la signorina Silvani, sua collega di lavoro. Ha anche un amico, sempre un collega dell'ufficio sinistri, con il pallino dell'organizzazione di piccoli eventi, il ragionier Filini. Fantozzi, ragionier Ugo, matricola 7829/bis, facevo lo straordinario. Fantozzi, ragionier Ugo, matricola 1001/bis, dell'ufficio sinistri. Difficile appunto non indovinare subito che l'amico immaginario di oggi è il ragionier Ugo Fantozzi, una delle maschere italiane, comica e tragica allo stesso tempo, più famose e longeve della storia del nostro cinema e non solo, regalataci da Paolo Villaggio. Un amico immaginario a cui dobbiamo un intero linguaggio fatto di espressioni ormai entrate nell'uso corrente, tutte con un denominatore comune, l'impossibilità di pronunciare congiuntivi in maniera corretta. Signore, io vorrei sdebitarmi. Bevi? No, grazie. Piuttosto, in cambio, mi facci un piacere. Venghi, venghi. Sì, dove? Ma che chiappe, che schifo. Mi è stato baciato dalla fortuna. Odio. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. A riprova di quanto quel linguaggio sia diventato comune nel nostro modo di parlare, Fantozzi è entrato anche nel dizionario italiano con l'aggettivo fantozziano, il cui significato è questo. Dicesi fantozziano colui che ha atteggiamento e mentalità pavidi e servili, attribuiti a un deprimente tipo di impiegato medio, alienato e perseguitato dalla sfortuna. La 1003, frigo e buffet, l'elettro dei frappè. Il personaggio di Ugo Fantozzi, impiegato vittima del destino che gli regala sempre eventi catastrofici e dolorosi, è nato 42 anni fa in televisione, quando la TV era in bianco e nero. Sì, ma adesso abbiamo 30 anni e dormiamo ancora per terra. Ma è perché siamo gli ultimi dei moicani, Paolo, dai. Ci hai mai pensato al fatto che saremo gli ultimi che hanno i ricordi in bianco e nero? Le foto dei nostri genitori, quelle delle vacanze, i programmi della televisione. Ma chi se ne ricorderà più? La nonna del corsaro nero? Belfagor. Cazzo, Belfagor. Siamo una tribù in via di estinzione, troppe balle. Vero. La TV appunto era in bianco e nero e Paolo Villaggio, esordiente allora, conduceva lo show Quelli della Domenica. Portava tre personaggi, il professor Kranz, Giandomenico Fracchia e Ugo Fantozzi. Chi viene voi adesso? Chi è che viene voi adesso? Viene io, viene Kranz, ed eccomi qua! Il ragionier Ugo Fantozzi nasce come personaggio nel 1968 nella trasmissione Quelli della Domenica, esordio televisivo del suo creatore Paolo Villaggio. Villaggio raccontava storie comiche e catastrofiche, citando in terza persona il protagonista Fantozzi, cognome preso in prestito da un collega dello stesso Villaggio in una grande azienda, suo vicino di scrivania. Da questi spunti, Villaggio scriverà una serie di racconti per l'Europeo, raccolti poi nel libro Fantozzi, tradotto in Europa orientale e che valse a Villaggio il premio sovietico Gogol. Seguirà il libro Il secondo tragico Fantozzi, dove per la prima volta Villaggio indosserà per la copertina del volume i vestiti del ragioniere. Visto il successo, il passo verso la trasposizione cinematografica è breve. Il ruolo del protagonista è dello stesso Villaggio. Il film, dal semplice titolo Fantozzi, uscirà nel 1975, diretto da Luciano Salce. Un successo assoluto, tale da dar vita ad una delle saghe comiche più longeve del cinema italiano. Seguiranno altri 9 episodi, il secondo sempre per la regia di Salce, dal terzo al nono sotto la guida di Neri Parenti. L'ultimo episodio, Fantozzi 2000, la clonazione, vede alla regia Domenico Saverni. Ugo Fantozzi vive in un mondo grottesco, popolato da una plebe di impiegati insoddisfatti, vessati dai superiori, pronti a qualsiasi cosa per non scontentare la casta, quella dei dirigenti aziendali. In questo mondo chi comanda ha qualifiche lunghe 3 righe. Ogni anno all'inizio della primavera il lavoro della megaditta veniva sospeso perché tutti gli impiegati potessero assistere in un mistico silenzio alla gioiosa cerimonia di addio ai colleghi pensionandi. Era timonata dal mega presidente galattico in persona, il Duca Conte, Loopman, Gran Ladr, Farabut, Multinaz, figli di Put, Francesco Maria Barambani. I nobili poi, quasi sempre le stesse persone che comandano i vertici aziendali o loro parenti, hanno cognomi anche in questo caso molto molto lunghi. Ecco Contessa, a lei! Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! E nel mondo di Ugo Fantozzi c'è ovviamente anche una famiglia, la moglie prima di tutto, Pina Fantozzi, capelli color topo, aria di messa, vittima dell'umoralità e delle rivendicazioni del marito. La signora Pina Fantozzi, età indefinita, aria di messa, è una casalinga, è sposata con il ragionier Ugo e pur non amandolo, dichiara di stimarlo. Donna con una sua dignità, tiene insieme la famiglia nonostante i tentativi di scappatella del marito con la signorina Silvani. Raramente si ribella, in un'unica occasione è lei ad avere tentazioni di trasgressione. Si invaghisce di un panettiere interpretato da Diego Abatantuono e solo la casa stipata di pane e panini fa intuire a Fantozzi il rischio di tradimento. Sto diabolico nell'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata... Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta. Nei tanti episodi della serie, la signora Pina ha avuto il volto di 2 attrici nei primi 2 film e in Super Fantozzi del 1986 è stata interpretata da Liu Bosisio, attrice, doppiatrice e scrittrice italiana. Negli altri film il ruolo è andato a Milena Vukotic, artista che ha recitato con Fellini, Lina Wertmüller e Steno. Di recente in TV ha preso parte alla fiction Un medico in famiglia con Lino Banfi. C'è una moglie, ma c'è anche un amante, o meglio, un desiderio di trasgressione, una passione proibita. La signorina Silvani, collega d'ufficio bruttina in un contesto di bruttone, quindi desiderata, desideratissima. Alle timide avance dei Fantozzi risponde quasi sempre con un due di picche, ma non sempre. Posso avere l'onore di averla a colazione? Gigi il Troione ho già prenotato. Ma veramente è un po' tardi, non lo so, avrei un impegno e... È già occupata, eh? Va bene, accetto. Accetta! L'amico immaginario. Bentornati all'amico immaginario. Nel capitolo Famiglia del ragioniero Ugo Fantozzi, una menzione speciale va senza dubbio all'unica figlia, Mariangela. Presenza costante e inquietante nei film della saga, il personaggio di Mariangela è una rappresentazione crudele perché tocca l'intoccabile, vale a dire i figli e il concetto d'amore incondizionato dei genitori verso le proprie creature. I bambini sono tutti belli. Questo è uno dei tanti luoghi comuni smascherati dalla saga di Fantozzi, perché Mariangela, la figlia del ragionier Ugo e della signora Pina, è orrenda a detta di tutti, a partire proprio dal padre, che la chiama babbuina non riuscendo a definirla bambina. La piccola è anche detta Bertuccia e Cita, ma il suo papà in fondo è buono e le dice che Cita Hayworth era una bellissima attrice. Lei però, la sua bimba, è ancora più bella. Per interpretare questa grottesca mostruosità, Luciano Salce e Paolo Villaggio scelsero un uomo, Plinio Fernando, che adesso fa lo scultore. Nei primi 8 film della serie è Mariangela, ma anche la nipotina del ragioniere, Uga. Il padre è un Latin lover da Riviera Romagnola, Loris Patacchi, 15.000 fan su Facebook. Ah, ecco qua, Fantozzi Mariangela. Ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questo cos'è? Mos le brotte. È un tipo. Un tipo? Sì. Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa. Me lo ricordo. È stata una delle mie più grandi soddisfazioni. È stata un'impresa disperata proprio. Ho scommesso con dei miei amici. 1.000.000 se ci davo l'orango. Mi son detto, Batacchi, quasi vuole il buio perché alla luce con questa non ce la fai neanche te. Ma che dice? L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio, c'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo. Devo aver preso anche lei, comunque. Sedotta e abbandonata, Mariangela scioglierà i lunghi capelli raccolti coi codini e si farà bionda, sposando il pelosissimo Bongo, senza mai lasciare l'amato papà. Se mammina, che è buona come il pane, peraltro. Ci dovesse lasciare, che sarà di noi? Non ti preoccupare, sì. Saremo insieme tutta la vita, soli tu e Dio. C'è un altro personaggio del grottesco universo fantozziano che spicca in modo particolare. Non è un familiare, ma quasi. È il collega ed amico Filini, ragioniere anche lui. È colui il quale costringe Fantozzi ad attività extralavorative in infinite varianti. La gita fuori porta, il campeggio nel fine settimana, oppure la mitica battuta di caccia. Apertura della caccia. Quest'anno, travolto dall'implacabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Abbigliamento di Filini. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galoche, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi! Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato dalla seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. Filini e Fantozzi, una coppia indiscussa come Gigi Reder, l'attore che interpretava Filini, e Paolo Villaggio. Nato a Napoli il 25 marzo del 1928 in una famiglia di origine tedesca, Gigi Reder cominciò la sua carriera nel mondo della radio come radiopresentatore e attore di radiodrammi. Esordisce anche sul palcoscenico con opere dialettali ed avanspettacolo, per poi cimentarsi con ottimi risultati in rappresentazioni di prosa in compagnie importanti capitanate da giganti del teatro come Peppino De Filippo, Turi Ferro, Mario Scaccia e Giorgio Albertazzi. Esordì al cinema agli inizi degli anni 50, con piccole parti in molte commedie. Caratterista e spalla di grande qualità, Gigi Reder prese parte a circa 60 film, alcuni dei quali firmati da Fellini, Germi, Vittorio De Sica e Comencini. Fu il personaggio del ragionier Filini a dargli però la grande popolarità, grazie ad un sodalizio con Paolo Villaggio che regalò momenti di comicità impagabile. Filini, nella serie di Fantozzi, è colui che organizza, partite a tennis, gite in barca, battute di caccia, ovviamente tutte a conclusione tragica. In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. Della società di Fantozzi era certo Filini, ovviamente dell'ufficio sinistro. San Silvestro, orchestra Mario Canello, canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri. Ma solo veramente io quest'anno sarei invitato da mio cognato. L'ho già iscritta io. Ah, ecco. Sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina. Mariangela. Ah, Mariangela. Mia figlia. Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando. Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante, l'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti. Gigi Reder è morto nel 1998 a Roma. Alla morte di Gigi Reder fu proprio Paolo Villaggio a comunicare alla stampa con queste parole la scomparsa dell'amico e collega. Muore una parte della mia vita. Era un grande attore che aveva recitato anche con Fellini, ma la gente ormai lo identificava col suo personaggio. Tutti quelli che mi hanno chiamato mi hanno detto: è morto Filini. Con me era come Peppino De Filippo con Totò. Spesso faceva ridere più di me. Fantozzi è grottesco, iperbolico, ai tratti di un cartone animato. Nel suo mondo tutto succede e poi si riparte da zero. Fantozzi stesso, più che un personaggio reale, è una maschera adattabile a molti. Fabrizio Buratto, giovane scrittore, ha pubblicato tempo fa un libro dal titolo Fantozzi, una maschera italiana. Fantozzi è una maschera, in realtà, è quasi un cartone animato, infatti piace ai bambini perché può precipitare da un palazzo di 5 piani o essere schiacciato da un rullo come Gatto Silvestro e non gli succede nulla. Piace agli adulti perché vedono in Fantozzi il collega d'ufficio e molto spesso anche loro stessi, anche se non lo vogliono ammettere. E se il ragionier Fantozzi è una maschera italiana, il suo mondo ha confini precisi, ruoli assegnati. Un mondo raccontato 30 anni fa, ma non lontano da quello che viviamo oggi. Un impiegato la cui vita era assorbita completamente dalla megaditta. Sì, quasi una famiglia, personaggi costretti a vivere insieme perché appunto il lavoro così capillarmente arrivava a organizzare tutta la loro vita. Il mega direttore che decide appunto anche gli hobby dei suoi sottoposti. La famosa scena della corazzata Potionchi dove gli impiegati sono costretti ad andare al cinema mentre c'è la partita della nazionale. Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni. Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantozzi, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Per me, la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! ...92 minuti di applausi! Trent'anni fa e più, il Fantozzi era un impiegato assunto a tempo indeterminato, combattuto tra la voglia di stare in poltrona con la famosissima frittatona di cipolle e inseguire modelli più elevati. Se Fantozzi 30 anni fa era così, chi è oggi Fantozzi? Ancora Fabrizio Buratto. Diciamo che oggi siamo tutti Fantozzi, poi il Fantozzi di oggi sarebbe il precario per eccellenza, perché appunto ancora più di Fantozzi il precario deve subire non solo le angherie del mega direttore eccetera, ma non ha proprio strumenti di difesa. Almeno Fantozzi aveva, che ne so, le ferie e la mutua. Oggi invece il precario Fantozzi deve adattarsi, arrendersi senza condizione, come diceva Fantozzi ad un mega direttore in uno dei primi film. Fantozzi, già qui? Accetto tutto. Ma come? Non ha neanche sentito quello che le ho detto. Accetterei comunque. Io mi arrendo senza condizioni. E allora venga, caro Fantozzi. Ma che cos'ha? Ha paura? Noi le vogliamo così bene. Ma è appunto per questo che io ho paura. Ma su, su, venga. Lei è il figliuol prodigo e noi le diciamo bentornato. Grazie, così mi riassumete. Certo. Riavrò il mio posto. No, proprio il suo posto, no. Ma le diamo qualcosa di più. E cioè? E cioè, oltre al nostro perdono, le offriamo anche la gioia purificatrice di meritarselo. Lei ricomincerà da capo, Fantozzi, dal gradino più basso della carriera. Noi la riassumiamo come parafulmine. L'amico immaginario. Bentornati all'amico immaginario. Torniamo a parlare dei personaggi che ruotano intorno a ragionier Ugo Fantozzi, in quel mondo popolato da donne e uomini perfetti per un cartone animato, seppure in carne ed ossa. Pina Fantozzi, la moglie, interpretata nei primi due film da Liu Bosisio e poi da Milena Vukotic, attrice di grande spessore e popolarità, vista negli ultimi anni anche nella serie della Rai Un medico in famiglia con Lino Banfi. A Milena Vukotic abbiamo chiesto come arrivò a quel ruolo. Mi chiamò Paolo, mi chiamò per telefono, mi propose di andare da lui per parlarne e così sono andata da lui. Lo stesso giorno, lo stesso momento è arrivato Neri Parenti e mi ha subito detto, insomma, il modo per adeguarsi a questo personaggio patetico che si avvicinava un po' a un cartone animato, come tutto quanto. Detto questo, io sono subito stata sedotta da Paolo, che è un compagno di viaggio molto importante, è stato molto importante anche nel corso così dei miei personaggi, diciamo così, delle maschere che a me piace indossare, perché questo personaggio è un personaggio evidentemente che ha un carattere molto forte, sia per quanto riguarda un aspetto fisico che tutto il suo mondo interiore, per cui sono stata sempre felice di farlo, anche se tutti, lo stesso Paolo mi dice, ma mi diceva ultimamente, non ti dispiace di fare sempre, perché poi ovviamente sono stata un po' identificata a questo personaggio, però lo rifarei subito, ecco. E con grandissimo piacere, soprattutto per la presenza di Paolo. E a Milena Vukotic abbiamo chiesto anche di ricordare per noi l'atmosfera che regnava sul set, anzi sui set della saga di Fantozzi. Direi che l'atmosfera era sempre quasi goliardica, perché c'era sempre uno spunto accentuato di grottesco, di umoristico, che eravamo tutti partecipi e coinvolti in questa girandola di scherzi o di cose che avvengono, che naturalmente finiscono sempre uno scherzo generalizzato, così, delle cose, della vita, degli ambienti, fermo restando che è molto impegnativo lavorare in un film di Fantozzi, perché tutte le cose che sono apparentemente così facili è frutto di un grosso lavoro da parte di tutti. ruolo, bisogna dire, non semplicissimo, di una donna che non ha un gran trasporto sentimentale per il marito, che non dice di amare bensì di stimare, una donna che subisce tentativi di tradimento, qualche vessazione, ma che anche ha una sua fortissima dignità. Tiene insieme la famiglia silenziosamente. Ancora Milena Vukotic. Eccomi, vengo. Pina, ho dimenticato le chiavi. Sono in tavola, gli spaghetti col tonno. No. È tutto il giorno che ci penso. Aspetta, Ugo, aspetta. Ma non ti ricordi che giorno è oggi? No! Ci sono tutti. Tutti? Voi due barricatevi in cesso, mettetevi in salvo. E uscite solo al segnale convenuto, te lo ricordi? Il verso della civetta. No, Pina, verso del gufo. Sì. Va bene. Del gufo, sì. Sì, io vado. Ugo, sii prudente. Pina, non esagerare, ne ho passate anche di peggio nella vita. Mariangela, dai un bacio a papà. Ma l'amore è cieco. Sì, è una donna che ha molta dignità e che riesce appunto a abbassare lo sguardo e la sua consapevolezza di dovere tenere vicino questo suo uomo e soprattutto la figlia, gli fa oltrepassare tutto, insomma. Certo, c'ha dei cedimenti, anche lei, man mano che va avanti, ma alla fine vince il desiderio di mantenere questo nucleo familiare che secondo la sua educazione, la sua morale, la sua fede deve rimanere comunque insieme. Nel percorso coniugale di Pina e Ugo Fantozzi, però, le infedeltà coniugali, seppur solo di pensiero, non sono solo appannaggio del ragioniere. Anche la signora Fantozzi, in un episodio, bisogna dire che ha un cedimento, una tentazione. Si invaghisce di un panettiere, impersonato da Diego Abbatantuono nella sua versione finto pugliese. Per la Pina quasi una rivolta, quella della donna chiusa in casa, appiattita dalla vita coniugale. Improvvisamente si fa bella, per così dire, indossa abiti attillati e flirta con l'improponibile Don Giovanni Abbatantuono. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti i filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio, alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. Sì, cioè non voleva tradire, ma ha ceduto a questo sentimento attraverso questi panini che era il frutto della sua sofferenza e della sua gioia. Ma comunque sì, era la prima volta poi che lei ha avuto questo cedimento, perché poi le altre volte, l'unica volta direi, perché le altre volte era il contrario. È lei che ha sempre cercato di parare i colpi e di ovviare ai suoi cedimenti. Tradimenti pensati e mai concretizzati, ma nella strada insieme della coppia fantozziana ad un certo punto c'è il divorzio. In Fantozzi alla riscossa, nel 1990, la signora Pina scrive un libro dal titolo Come vivere con un fallito ed essere felici, che diventa un bestseller. Offeso a morte dalle numerose accuse lanciategli nel libro, Fantozzi decide di divorziare dalla moglie. Un passaggio, bisogna dire, amaro del film, con una grande interpretazione della Vukotic. È mio dovere invitarvi ad un'ultima riflessione prima di un passo così grave. Sono 35 anni che siete sposati. 37, signor giudice. Anche troppi. Ma non c'è qualcosa che ancora vi lega? Attrazione fisica? Affetto? La vostra bella figlia, la nipotina, mi sembrano molto addolorate. Guardatele. Ripensaci, papà. Fallo per me, per noi. Nonnino. Lascia stare, tesoro. E anche lei, signor giudice. Ormai è deciso. Forse lui ha ragione, forse io non sono stata la compagna ideale per lui. Si vede che non l'ho aiutato. Non l'ho spinto abbastanza. Mi ha impedito di vivere, signor giudice. Mi ha sempre tarpato le ali e poi ultimamente mi ha anche ricoperto di ridicolo. Forse lui ha diritto di rifarsi una nuova vita, signor giudice. Firmate qui. Posso ancora firmare? Lina Fantozzi. E per completezza di cronaca, di informazione, bisogna aggiungere che dopo un tentativo andato ovviamente malissimo di convivenza con la signorina Silvani, Fantozzi chiederà ad un cervellone elettronico di dirgli chi è davvero la sua anima gemella. Il responso della macchina chiuderà per così dire il cerchio. La sua dolce metà è la signora Pina, con cui Fantozzi tornerà di corsa. L'altra donna di Fantozzi, quella desiderata per una vita, è la signorina Silvani. Personaggio senza nome proprio, ma solo con un cognome, al viso, il corpo e le espressioni di Anna Mazzamauro. C'ha il naso lungo ed è mostruosa. No, non è vero. Che te devo dire? Il profilo da Silvani dopo 800 anni, mamma mia. È più che altro un personaggio, è una cornice, è un cartone animato, ecco. È un cartone animato come Minnie, come Paperina. Infatti nello spettacolo che io ho fatto mi chiedevo all'inizio, vi siete mai chiesti che nome abbia la Silvani? Così come non ti chiedi che cognome abbiano sia Paperina che Minnie. Allora, loro senza cognome e io, la Silvani, senza nome, sono dei personaggi da cartone animato, ripetitivi, non per annoiare ma per inserirli in avventure diverse ogni volta, così come succede nei cartoni animati. Che per me è stata una cornice eccelsa e dolorosa, eccelsa perché in un anno io ho acchiappato quello che in popolarità avrei acchiappato in 30 anni di carriera. È stato però una mia dolorosa cornice, perché siccome viviamo in Italia, per carità, io amo l'Italia in tutte le sue orrendezze, non voglio essere esterofila, per carità, ma in Italia purtroppo vige il principio di è uscita con quel personaggio, quell'attore, a vita deve fare quello. Allora, se c'è una cosa contro la quale io mi sono sempre battuta sono stati i cliché, gli stereotipi. Ha visto la povera contessa, oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza. Che bei versi, sono suoi? Sì, una mia cosettina giovanile. Ah, anche poeta. E il significato? Cogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. E quindi... Dica. Posso avere l'onore di averla a colazione da Gigi il Troione, ho già prenotato. Ma veramente è un po' tardi. Non lo so, avrei un impegno e... È già occupata, eh? Va bene, accetto. Anche ad Anna Mazzamauro abbiamo chiesto di ricordare per noi come arrivò a quel ruolo, interpretato poi per così tanto tempo e in così tanti episodi. Un ricordo in cui ci sono Paolo Villaggio, ma c'è anche Luciano Salce. Quando io quella mattina mi sono vestita come Sergia col vento, lei quando va all'appuntamento corretto e non c'è una lira si mette le tende, io mi sono messa una tovaglia di pizzo, mi sono messa un cappello, ho alzato i tacchi per alzare il culo, insomma mi sono vestita come per una protagonista. Allora, apro la porta della produzione, dopo aver bussato naturalmente perché sono educata, e apro, spalanco le braccia come per dire a Lucia Salce, ecco la protagonista del tuo film. Salce mi guarda un po' meravigliato, un po' divertito, un po' preoccupato e mi dice: Anna, scusa, io ti ricordavo più brutta. Allora lui mi fa veramente... E l'incontro era per la moglie di Fantozzi, tu sei troppo bella per fare la moglie di Fantozzi. Allora io a quel punto, l'attrice ha vinto sulla donna, mi sono levata il cappello, mi sono levata i tacchi, ho abbassato il culo, mi sono levata, insomma, guarda che io potrei fare pure Riccardo III, ora l'inverno del nostro scontento, e insomma ho giocato un po' su questa cosa. Allora lui alla fine mi ha detto, ridendo, ha detto a Paolo Villaggio: ma guarda, per la moglie no, ma c'è la Silvani. E io: chi è Silvani? È come la donna dei sogni di Fantozzi, è tua. E io mi sono infilata i tacchi, con questi tacchi sono andata in cinema. E quel provino con Luciano Salce portò a lavorare Anna Mazzamauro, unica attrice nel mondo ad aver interpretato il ruolo di Cyrano de Bergerac, a lavorare, dicevamo, anche con Gigi Reder, di cui abbiamo già parlato e che la Mazzamauro ricorda in questo modo. Con Gigi abbiamo sprecato tanti Kleenex perché truccati, le risate che ci facevamo io e Gigi, non puoi credere, non puoi capire. Ridevamo sempre, ma non perché eravamo due cretini, ridevamo perché io mi divertivo con lui e lui si divertiva con me, e quindi da questo incontro e scontro di due comicità di due persone buffe, nascevano delle lacrime che facevano inorridire i truccatori. L'amico immaginario. Bentornati all'amico immaginario. Nel corso degli anni, 25 per la precisione, dal primo Fantozzi all'ultimo, la maschera comica ha lasciato il passo ad aspetti più drammatici, tristi e amari. La ragione fondamentale ce la racconta ancora Fabrizio Buratto, autore del libro La maschera di Fantozzi. Perché al contrario di Totò o di Jerry Lewis o di Spagnolio, che sono sempre uguali sullo schermo, perché appunto hanno una carriera abbastanza breve rispetto a quella di Villaggio, lui nei 25 anni di Fantozzi, cioè dal 75 al 2000, cambia proprio anche status sociale, cioè diventa da lavoratore pensionato, invecchia sullo schermo e gli ultimi film fanno anche molto meno ridere, diciamo, cioè si può quasi provare pietà da quando Fantozzi va in pensione nel 1987, quando si sente completamente inutile. Che faccia ridere o che provochi tristezza, la storia del nostro amico immaginario, Ugo Fantozzi, è una storia di successo, di qualcosa che si è radicato nel profondo dell'immaginario collettivo. Ancora Anna Mazzamauro. Credo, dopo tanti anni, di capire che Fantozzi, al di là del fatto che è o detestato o è amato, è proprio in questa contraddizione trova il suo successo, perché noi vediamo in Fantozzi e quindi tutti i personaggi intorno quello che non vorremmo mai essere e quello che in fondo vorremmo essere. Cioè, io nel vedere la Silvani ho sempre pensato di essere una gran figa, perché ero, come dicevi tu giustamente, il desiderio nascosto di Fantozzi e di tutti gli impiegati, ma perché gli altri erano tutti mostri, quindi è facile essere gran figa tra i mostri, no? È proprio le piccole cose del quotidiano, è la caduta sulla scivolata sulla buccia di banana che fa ridere ed è banalissimo, no? Tutti si appigliano a questo piccolo avvenimento per far ridere gli altri, però purtroppo è così, perché mentre vediamo il personaggio scivolare noi pensiamo noi non stiamo scivolando perché siamo migliori e per questo lo amiamo, e lo detestiamo quando, come nei grandi autori, quel personaggio scava talmente nella profondità del nostro animo e della nostra mente da scoprire i nostri segreti. Lo stesso Paolo Villaggio, in una intervista di qualche tempo fa a Mario Sesti, ha provato a spiegare le ragioni di questo successo e ha parlato di valore terapeutico del ragioniere più famoso d'Italia. Gli italiani a quei tempi ridevano molto, perché c'è quel fondo di provincialismo un po' cattivo, infantile, perché i bambini sono perfidi, sono degli uomini di una perfidia assoluta, non è vero che i bambini sono semplici, buoni, no, i bambini sono delle carogne autentiche. Gli italiani non hanno intuito una cosa fondamentale, mi fermavano per strada e mi dicevano: no, le posso dire una cosa, Villaggio, sa che quel personaggio lì non era ancora così famoso come è diventato adesso, sembra mio zio, è il mio vicino del pianerottolo, è uno che passa sotto casa. Poi lentamente si è capito, no, che lui è stato un grande terapeuta, cioè ha liberato, stavo per dire esorcizzato, ha liberato gli italiani dal timore di essere isolati in un certo tipo di incapacità a vivere, a essere felici. Cioè nella cultura consumistica, la settimana bianca, le code, le spiagge infernali, i prezzi osceni, la moglie terribile, in quel tipo di sfortuna e di incapacità a essere felice, secondo i dettami della cultura consumistica, perché la cultura consumistica gli diceva a quella che è arrivata dall'America: consuma e sei felice, fai delle vacanze e sarai felice. Lui faceva le vacanze, andava alle settimane bianche, andava al mare e tornava massacrato, ma massacrato, assolutamente infelice. Gli italiani vivevano la stessa tragedia, avevano paura di essere anomali. Poi lentamente un terapeuta, posso dire io, gli ha detto: no, guarda, non sei un fenomeno isolato, tutti quelli che subiscono quel tipo di cultura sono destinati a essere infelici. Allora è nata una specie di grande gratitudine, quindi una grande simpatia. Il successo, è cosa nota, si misura anche con le imitazioni, le parodie, le citazioni. Del primo genere, quello delle imitazioni, delle espressioni fisiche e lessicali, è pieno il web. Basta dare uno sguardo a YouTube. Decine di imitazioni pubbliche e private, dal concorrente della corrida di Gerry Scotti al ragazzo che imita Fantozzi invece sulla webcam personale nella propria camera, fino al pianista che riarrangia e suona uno dei motivi della colonna sonora della saga. Fantozzi! Come va? Sveglie, caffè, barbe, presto che perdo il tram. Fantozzi, tiri! Ma che, mi dà del tu? No, tiri lei! Quando si cambia... 5 secondi. Pronti? Fantozzi, è lei? Quando si schiaccia la mano... Oh, yeah. Quando diceva venghi, venghi. La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca. Venghi, venghi, ragionieri, facci così. Fantozzi, alla bersagliera! Oh. Ah, soprattutto il più classico dei classici, la corazzata Potionkin, 18 bobine. E per fortuna, oltre ai DVD, ai libri e ai passaggi televisivi, possiamo rivedere Fantozzi e il suo mondo tutte le volte che vogliamo grazie a internet. Sul web, come dicevamo, non solo le imitazioni, gli spezzoni video delle scene cult, ma anche siti, fotografie e addirittura una corsa ciclistica tra merdacce. Il trofeo Fantozzi è una corsa goliardica riservata a ciclisti improvvisati, sedentari, sovrappeso, anche chiamati merdacce dagli organizzatori. Si presenta così uno dei 744.000 siti che Google segnala se si digita il cognome del ragioniere. E se i primi risultati sono video dei film con Paolo Villaggio e la definizione Fantozzi di Wikipedia, gli altri proprio non c'entrano nulla con il personaggio cinematografico. Fantozzi è un cognome diffuso e si trovano arredamenti, centri di consulenza sulla sicurezza, scale, commissari straordinari per Alitalia e molto altro, compreso una pagina di Facebook che invita tutti i fantozzi del mondo a unirsi per non essere più chiamati merdacce a causa del personaggio di Villaggio. Sul social network a nome Fantozzi Ugo ci sono 304 pagine, quella dei film ha più di 294.000 ammiratori, ma ben 20.000 sono i fan di Mariangela e 15.000 quelli del seduttore Loris Battacchi, e si può anche scoprire quale personaggio del film ci rappresenta meglio. Su YouTube Fantozzi impazza, 3.120 risultati fra imitazioni e brani dei film, su tutti la preparazione per la partita in TV. Fantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. L'annunciclopedia wikia.com ha una voce Fantozzi, la Bibbia dei cinefili IMDb, ricorda tutti i film e anche una battuta in inglese. Centinaia sono invece quelle riportate in Wikiquote. Prima di chiudere il nostro esperimento popolare, per strada abbiamo fatto un piccolo sondaggio sulla scena preferita dei film di Fantozzi, ovviamente alle persone che incontravamo. La mia scena memorabile di Fantozzi è... quando si mette davanti alla televisione, quella si spoglia praticamente, quella lì. Quando guarda, è nata sua figlia, guarda per la prima volta sua figlia e si spaventa. Ah beh, la scena quando si siede sulla poltrona che poi cade di fianco, questa è un classico. Quando si incastra con la mano nella porta. Ah, quando si ingriffava che vedeva le donne, quell'episodio dove era in una dieta forzata. Metteva dentro in bocca la roba da mangiare, quando il dottore si girava mandava giù. tu mangia! Tu mangia! Infermieri! Lui mangia! Le scene della corazzata Potëmkin, dal rifacimento della scena alle domande del professore sui film, alla più classica, però più che altro le altre due che sono più originali, diciamo, con più citazioni cinematografiche. Oppure le scene in cui va a finire contro il treno. Quando parla dei mondiali, che sei che in poltrona con la canottiera, quello di Fantozzi. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Oppure le scene quando entra in casa e trova la moglie, quella figlia bruttissima. Quella del tram, no, dell'autobus. Quella della partita Scapoli ammogliati con l'arcangelo Gabriele sulla traversa. A quella temperatura Fantozzi andava sempre in estasi mistica. Questa volta gli apparve l'arcangelo Gabriele, che gli annunciò la sua prossima maternità. Materiali sul nostro amico immaginario di oggi, come sempre sul gruppo Facebook della trasmissione L'Amico Immaginario. Vi salutiamo con la nostra scena preferita di Fantozzi, breve ma significativa, con un'espressione, la sentirete, che chiunque sia andato in barca almeno una volta ha provato il desiderio di pronunciare. Cazzi quella gomena! Scusi, non ho capito bene, come cazzi? Cazzi quella gomena! Ah, cazzi, cazzi, se no si incazza! E questa? Vabbè, allora, cazzo, allora faccio tre giri o quattro? Ma che fa? Cazzi, la leghi, la fissi! Ah, la fisso, non mi ricordo... Venga il mezzo marinaio! Eh? Dov'è il mezzo marinaio? Scusi, ha visto per caso un marinaio molto... No, io... È un sardo, scusi! Ma lo cerchi dietro il tangone! Lo cerchi dietro il tangone. Dietro il tangone. Dietro il tangone! Al prossimo appuntamento, al prossimo Amico Immaginario.